Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene su Radio Big World. Io sono Francesca dell'Associazione Energicamente ed oggi vi parlerò di una spezia particolare, la curcuma e dei suoi benefici, proseguendo così nel percorso che ci ha portato ad analizzare il benessere anche in chiave gastronomico-alimentare. La curcuma, come dicevamo, è una spezia particolarissima. Deve il suo nome al latino curcuma longa ed è una pianta appartenente alla famiglia delle zingiberacee, tipica dei paesi orientali con clima tropicale e con piovosità elevata. La curcuma presenta foglie allungate ed ovali che accolgono fiori dai cui rizomi si ottiene questa potente e pungente polvere colorata in seguito ad una serie di lavorazioni. Oltre ad essere ricca di vitamine del gruppo B, C e K e di diversi minerali, la componente principale della spezia e più caratteristica della curcuma è la curcumina, un estratto usato anche come colorante, oltre che come integratore alimentare, che racchiude in sé tantissime proprietà, rendendo questa spezia utilissima per il benessere del nostro organismo sotto tantissimi aspetti, compreso il dimagrimento. La curcuma ha proprietà antiossidanti, che trasformano i radicali liberi in sostanze innocue, rallentando così anche il processo di invecchiamento cellulare, antinfiammatorie, riducendo l'espressione delle prostaglandine, cicatrizzanti, in India infatti viene applicata localmente in caso di diversi problemi epidermici, antibatteriche, impedendo che le proteine strutturali batteriche possano assemblarsi tra loro, e anche analgesiche. Inoltre riduce la concentrazione di colesterolo LDL e rafforza i vasi sanguigni, migliorando lo stato di salute dell'intero apparato circolatorio. Insomma, molti comparti del nostro organismo possono beneficiare degli effetti positivi della curcuma e anche lo stesso metabolismo basale è tra importanti vantaggi del suo consumo. Questa spezia, infatti, ha spiccate proprietà dimagranti, come dicevamo. La curcuma, infatti, o meglio, la sostanza in essa contenuta, ovvero la curcumina, stimola gli adipociti a secernere e rilasciare un'altra sostanza detta adinopectina, molecola in grado a sua volta di stimolare l'organismo a liberare ed utilizzare i grassi accumulati sotto forma di riserva. Inoltre, aiuta il fegato a lavorare meglio nel metabolizzare i grassi introdotti durante i pasti, in particolare quelli derivanti da carboidrati complessi e dagli zuccheri raffinati, di più difficile digestione. Ma non solo. La curcuma ha proprietà dimagranti in quanto la curcumina agisce anche ad un livello molto più profondo, svolgendo un importante ruolo nel contrastare la cosiddetta infiammazione cronica di basso livello o basso grado, causata tra l'altro anche dall'obesità. E purtroppo punto di partenza cruciale per lo sviluppo di differenti patologie come il diabete di tipo 2, le alterazioni aterosclerotiche, l'insulinoresistenza, la depressione e anche il cancro. La curcuma aiuta a depurare l'organismo agendo su vari organi e muntori, fegato in primis, contrasta lo stress ossidativo proveniente da cibi dannosi che rilasciano più radicali liberi, proteggendo la mucosa intestinale e gastrica. Inoltre, la curcuma aiuta a dimagrire perché fa sentire meno la sensazione di fame, stimolando la corretta funzionalità di un ormone, la leptina, molecola prodotta dal tessuto adiposo che va a regolare proprio il senso di sazietà. Infatti, nelle persone obese vi è una resistenza a questa leptina, per cui il segnale di sazietà non riesce ad arrivare efficacemente al cervello. Da qui ovviamente nasce un desiderio di mangiare e un senso di fame sempre maggiore. Anche il ristagno di liquidi sembra possa essere scongiurato dall'azione di questa potente spezia, viste le sue capacità di agire tanto sul sistema circolatorio quanto su quello linfatico, maggiormente responsabile, come sappiamo, nella formazione, della formazione dei cuscinetti adiposi e della fastidiosissima pelle a buccia d'arancia. A tale proposito, fra l'altro, la curcuma può essere utilizzata non solo assumendola, quindi attraverso alimenti o in composti nei quali può essere utilizzata come spezia, ma anche attraverso l'applicazione locale di appositi impacchi anticellulite. Ma non è tutto. La curcuma infatti contribuisce anche a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e a migliorare il metabolismo degli zuccheri introdotti attraverso la dieta. In questo modo si evita che possano verificarsi continui picchi glicemici, i principali responsabili degli attacchi di fame, che portano a frequenti ed alti livelli di insulina, causando così la produzione di prostaglandine, sostanze infiammatorie che attivano il processo di lipogenesi, ossia di un aumento di produzione di grasso e nei depositi. Infine, l'uso della curcuma è consigliato anche per evitare gonfiori addominali dati dalla fermentazione prolungata dei cibi. Ciò è reso possibile dal fatto che la curcuma stimola la produzione della bile e quindi favorisce i processi digestivi, specialmente quando sono coinvolti carboidrati e grassi. Un valido aiuto per avere quindi una pancia più piatta e scongiurare la pesantezza postprandiale. La curcuma può essere utilizzata per preparare un composto molto usato anche in India, il cosiddetto latte dorato, che può essere aggiunto facilmente ad un qualunque latte, anche vegetale. Per prepararlo basta mescolare un quarto di tazza di curcuma e circa mezza tazza di acqua, stemperare in modo che non si formino grumi, e porre il composto sul fuoco e infine far cuocere il tutto a fiamma medio-bassa finché non si ottiene una pastella abbastanza densa. A questa andrà aggiunta una punta di pepe nero macinato sul momento possibilmente, e infine utilizzare un cucchiaino della sostanza ottenuta ogni mattino, accompagnandolo, come si diceva, o sciogliendolo in una qualunque bevanda calda, preferibilmente un latte di origine vegetale, volendo unendo a questo un cucchiaino di olio di mandorle dolci per uso alimentare ed un poco di miele per dolcificare. Per oggi è tutto, e nel ringraziarvi e nel ringraziare Radio Big World per l'opportunità che ci viene concessa, vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra mail info@energica-mente.it ed i nostri numeri di telefono. Il mio, io mi chiamo Francesca, 340-2345-340, il numero di Franco 329-8989-669 ed il numero di Elisa 339 38 60 123. Grazie e a risentirci alla prossima puntata. Buonasera.